Thank you. Basta, basta, discepoli! Alla triforme dea le voci giunsero. Esauditi sarete in breve termine. Su via, tosto sugli omeri, prendete l'arcimassimo mio canocchial novissimo. Drizzate sulla specola perpendicolarmente in per l'eclittica. Vo' vedere se avvicinasi dei due pianeti il sinodo. Ide est quando la luna al sol congiungesi, che dal mondo volgare eclissi appellasi. Andate, andate subito, pria che Cinzia ritorni al suo decupito. Cose belle che a intendere si danno a quei che poco sanno per natura, o che gran bel mestier è l'impostura. Chi finge di saper accrescer l'oro, chi cavare un tesoro, chi dispensa segreti, chi parla dei pianeti, chi vende mercanzia di falsa ipocrisia, chi finge il nome, titolo e figura, o che gran bel mestier è l'impostura. Io fo la parte mia con finta astrologia, ingannando egualmente i sciocchi e i dotti, che un bravo ciarlatane trova i merlotti. Eccone uno, ecco quel buon cervello del signor buona fede, da lui che tutto crede, con una macchinetta inventata col mio sottile ingegno, fare un colpo galante, ora m'impegno. Si vuole entrar? Sì, venga, mi fa grazia. Servo, signore critico, in che cosa si starei divertendo? Nella speculazion di varie stelle. Stavo or considerando l'analogia che unisce alle fisse erranti, al capo di Medusa il can celeste, al cuore del leone la spiga d'oro, e dall'orsa maggior l'occhio del toro. Oh, bellissima cosa! Anch'io d'astrologia son dilettante, ma quel che mi dà pena è non saper trovar dottrina alcuna che mi sappia spiegar cos'è la luna. La luna è un corpo diafano che dai raggi del sole illuminato, ma in quel bel corpo luminoso e tondo che credete vi sia, v'è un altro mondo. Oh, che cosa mi dite? Colà v'è un altro mondo. Ma cosa son quei segni che si vedono nel corpo della luna? So che un giorno mia nonna, la qual non era sciocca, mi disse che l'avea gli occhi e la bocca. Scioccherie, scioccherie! Le macchie oscure son del mondo lunare, colline e monti, non già monti sassosi come da noi veggiam, ma son formati d'una tenue materia, la quale s'arrende e cede alla pressione del piede, indi sale sabel bello e non si spacca, onde l'uomo cammina e non si stracca. Oh, che bel mondo! Ma ditemi, amico, come siete arrivato a scoprir cosa tale? Ho fatto un canocchiale che arriva a penetrar cotanto in dentro che veder fa la superficie e il centro. Individua non solo i regni e le province, ma le case e le piazze e le persone. Con il mio canocchialone posso veder lassù, per mio diletto, spogliar le donne quando vanno a letto. Oh, bellissima cosa! Ma dite, non potrei, caro eclittico mio, col vostro canocchial vedere anch'io? Perché no? Benché io sia solo l'inventor della mirabile arte, voglio che ancora voi ne siate a parte. Obbligato vi sono e vi sarò, vedrete per voi cosa farò. Nella specola entrate, nelle canocchiale mirate, cose belle vedrete, cose rare, per cui voi stupirete. Vado e provare io voglio se con quel canocchiale sì lungo e tondo alla luna possio vedere il fondo. Ma chi son quei signori che d'onde devo entrar vengono fuori? Sono scolari miei, amanti della luna, come lei. Servitore obbligato! Olà, Claudio, Pasquino, la macchina muovete, fate che la s'appressi al canocchiale, onde, mirando in quella, il signor Buonafede muovere le figure ad una, creda mirar nel mondo della luna. Quanti sciocchi mortali, con falsi canocchiali, credono di vedere la verità e non sanno scoprire la falsità. Quanti va scrutinando quello che gli altri fanno e se stessi conoscere non sanno. Il signor Buonafede ora di vedere crede le lunatiche donne son lassù e le lunatiche sono ancor qua giù. Ho veduto, che cosa mai? Ho veduto una cosa bella assai. Ho veduto una ragazza far carezza ad un vecchietto. Oh, che gusto, oh, che diletto che quel vecchio proverà. Proverà. Oh, che mondo benedetto, oh, che gran felicità, che gran felicità. Se una ragazza fa carezze ad un vecchio, non la sprona l'amore, ma l'interesse, lo vezzeggia, lo adora, ma che crepi il meschino non vede l'ora. Ho veduto! E che, signore? Una cosa di cui rido di cuore. Ho veduto un buon marito leggere il corito d'una certa infedeltà, d'una certa infedeltà, d'una certa infedeltà. Che quanto fintamente ammirato fosse nel nostro mondo praticato. Se gli uomini di garbo alle cattive mogli d'esser di bastonate un precipizio, avrebbero le donne più giudizio. Oh, questa assai mi piace! Che vuole dire? Ho veduto il contrario di quello che tra noi si suole usare. Da un uomo e da una donna praticare. Ancor suseria se gli uomini non patisser la pazzia. Caro signore critico, ho veduto gran cosa e per farvi vedere che son contento questa borsa tenete. Oh, che meraviglia! Prendetela via, ch'io così vuò. Se volete così, la prenderò. Domani ritornerò. Siete padrone. Certo, quel canocchiale è assai ben fatto. Tutto, tutto si vede, ho un gusto matto. Oh, gran felicità. Che piacere, che diletto, oh, che gusto che mi dà, che gusto che mi dà, che gusto che mi dà. Io la caccia non fo alle sue monete, ma vorrei, se potessi, la sua figlia Clarice, custodita con tanta gelosia, torla dalle sue mani e farla mia. Amico, vi son schiavo. Servo, signor Ernesto. Riverisco il signor segretario della luna. Sei pazzo! E tal morrai! Veduto uscire, o dalla vostra casa, il signor Bonafede, dite, è vostro amico. Amico ed amicone della nostra professione. Egli ha una bella figlia. Anzi, ne ha due. Anzi, rassembra me, che con la cameriera n'abbia tre. Son di Flamini amante. Ed io Clarici adoro. Per Lisetta ancor io, spasimo. E moro! L'ho chiesto a buona fede ed ei me l'ha negata. Spera di maritare le proprie figlie con principi d'altezza. E così spera a un conte maritare la cameriera. Corrisponde Flaminia all'amor vostro. Mi ama con tutto il cuore. La mia Lisetta per le bellezze mie pare impazzita. E Clarice di me pure invaghita. Ditemi, voglia noi rapirle a questo pazzo? Il ciel volesse. Secondatemi dunque e non temete. Ottimo mezzan, so che voi siete. Di danar come state? Quando occorra, io voterò l'erario. Io sacrificherò tutto il salario. Andiamo. Oh, un macchinista, che prodigi sa far col mio ingegno, oggi di farmi impegno che il signor Bonafede o sia baggiano, le tre donne ci dia con la sua mano. Oh, bravo! E come mai? Tutto saprete, preparate moneta, preparate di far quel che dirò. E la parola mia vi manterrò. Un poco di danaro, un poco di giudizio, vi vuole per quel servizio. Voi mi intendete già. Un poco di danaro vi vuole quel servizio. Un poco di giudizio vi vuole quel servizio. Voi mi intendete già. Voi mi intendete già. Voi mi intendete già. Un poco di danaro, un poco di giudizio, un poco di giudizio, mi vuol per quel servizio, voi mi intendete già. Un poco di danaro, mi vuol per quel servizio. Poco di giudizio vi vuol per quel servizio. Voi m'intendete già, m'intendete. Vi vuol per quel servizio. Voi m'intendete già, voi m'intendete già, voi m'intendete già. Contento voi sarete, ma prima riflettete che il solido e l'avaro, che il solido e l'avaro mai, mai, mai, mai nulla va. provvedirà. Esser ricco sfondato. E a che motivo? Perché a fare il mezzano egli non ha difficoltà d'alcuna, ed è questo un mestiere che fa fortuna. Tu dici male, eclittico e sagace, e se in ciò ne compiace, il fa perché clarice, e spera e brava. Ho inteso, di brava render contenti i desideri suoi, e vuol fare il piacere pagare a noi. Or su taci e rammenta chi son io, chi sei tu. Per 100 anni, padrone, non parlo più. Vado in questo momento denaro a provveder. Tu vai, m'attendi, declittico all'albergo, ove domani, merced di lui talento, spero che l'amor mio sarà contento. Thank you. qualche volta il padron mi fa da ridere, e segue il mondo stolito, cambia le cose il termine, e il nome cambia ben, e spesso gli uomini. E per esempio un ipocrita si dice uom divotissimo, all'avaro si dice bravo economo, e generoso vien chiamato il prodigo, così appella talun bella la femmina, perché sul volto suo la biacca semina. Mi fanno ridere quelli che credono che quel che vedono sia verità. Mi fanno ridere, mi fanno ridere quelli che credono che quel che vedono sia verità. Mi fanno ridere che quel che vedono sia verità, sì, sia verità. Mi fanno ridere, sì, quelli che credono mi fanno ridere, sì, quelli che credono che quel che vedono sia verità. Quelli che credono, quelli, sì, mi fanno ridere, mi fanno ridere, quelli che credono sia verità, sì, sì, sia verità. Non sanno i semplici che tutti fingono, che tutti fingono, di falsità, che il vero dicono di falsità, di falsità. Mi fanno ridere quelli che credono che quel che vedono sia verità. Mi fanno ridere, mi fanno ridere quelli che credono, che credono che quel che vedono sia verità. Mi fanno ridere, mi fanno ridere che quel che vedono sia verità, sì, sia verità. Mi fanno ridere, sì, quelli che credono mi fanno ridere, sì, quelli che credono che quel che vedono sia verità, quelli che credono, quelli, sì, mi fanno ridere, mi fanno ridere quelli che credono sia verità, sì, sì, sia verità. E venite, Germana, andiam su quella loggia a godere della notte il bel sereno. Se il genitore austero ci ritrova colò, miseri noi, che badia fatte soli ci vuol tener rinchiose dall'aria difese, come fossimo noi pene di ragno, finché non qui questi gelosi dalle donne si fa morir rabbiosi. Thank you. Brava signora figlia, v'ho detto tante volte che non uscite dalla vostra stanza. Ed io tant'altre volte mi sono dichiarata che non posso soffrir di star serrata. E ben bene, fraschetta, so io quel che farò. Sì, castigatemi, scacciatemi di casa e maritatemi. Se io ti maritassi non castigherei te, ma tuo marito. Ne castigo maggior dargli potrei, quanto una donna pazza qual tu sei. Io pazza, v'ingannate, pazza sarei qualora mi lasciassi un po' troppo intimorire e avessi ben rispetto a intisichire. Thank you. La potessi nel mondo della luna, avrei speranza, castigata a veder la sua baldanza. Serva, signor padrone. Addio, Lisetta. Vuol cenare? E ancor presto, aspetta un poco. Ho posta già la panatella al fuoco. Brava, brava, Lisetta. Ah, se sapessi le belle cose che ho veduto. E cosa ho veduto di bello? Ho avuto la fortuna di mirar dentro il mondo della luna. Ecco la sua pazzia. Senti, può darsi, sai che ti voglio bene. Può darsi ancora, se tu mi sei fedele, se non ricusi di darmi un po' d'aiuto, io ti faccia vedere quel che ho veduto. Sapete pur che io sono vostra serva fedele e semplice vostra tenera amante, invaghita però sol del contante. Quando è così, mia cara, dell'avventura mia ti voglio a parte. Vedrai d'un uomo l'arte, quanto può, quanto vale, le prodezze vedrai d'un cannocchiale. Vorrei che un cannocchiale si desse al mondo, con cui vedesse il fondo del mio povero cor, che sol per voi arde d'amore e fede. Egli è pazzo davvero, se me lo crede. A rimirarlo dentro, in quel tuo cor sincero, serve di canocchiani il mio pensiero. Vedo che mi vuoi bene, vedo che tu sei mia. Ma non vede che questa è una pazzia? Doman ti vuo menar dal bravo astrologo. Vedrai quel che si pratica lassù, dalle donne da me, come sei tu. Thank you. c'è poi la mia Lisetta, una buona ragazza. Non è di quelle serve impertinenti che quando hanno la grazia del padrone vogliono in casa fare le brachessone. Ehi, signor Buonafede, si può entrare? Oh, capperi chi è qui? Venite, signor sì, cos'è sta novità? Qualche cosa di grande vi sarà. Compatite se io vengo in quest'ora importuna a disturbarvi. Un segno d'amicizia io vengo a darvi. Oh, che buona fortuna a me vi guida. V'è nessun che ci ascolti? No, siamo soli, parlate pur con libertà. Voi siete l'unico galantuomo che io stimo ed amo. Onde vi vengo a usar, per puro affetto, un atto d'amicizia e di rispetto. Obbligato vi sono, ma che intendete voler dire con ciò? Vengo da voi per sempre a licenziarmi. Ohimè, per sempre, ditemi cosa fu. Amico, addio, non ci vedremo mai più. Voi mi fate morire, ma perché mai? Tutto confido a voi. Sappiate, amico, che il grande imperatore del bel mondo lunar con lui mi vuole. Io tra pochi momenti sarò insensibilmente trasportato lassù per mio destino e sarò della luna cittadino. Come? È vero? Oh, gran caso! Ah, me infelice se resto senza voi! Ma in qual maniera la voce di lassù poté arrivare? Là, nel mondo lunare, un astrologo vecchio me son io, che ha fatto un canocchiale simile al mio. Congiunti nella cima i canocchiali, e levando il cristallo, ossia la lente, facilissimamente sento quel che si dice in altro mondo. E col metodo stesso anch'io rispondo. Oh prodigio, oh prodigio! Ed in che modo sperate andar tant'alto? Dalla terra alla luna v'è un gran salto. Tutto può confidarvi. Dal canocchiale stesso il grande imperatore m'ha fatto schizzettar certo licore che quando il beverò leggermente alla luna io volerò. Amico, ah, se voleste, aiutarmi potreste. E come mai? Schizzettatemi un po' di quel licore che v'ha mandato il vostro imperatore. Eccolo nella rete. E poi anch'io verrò lassù con voi. Ma non vorrei che se ne avessi a male sua maestà. È un signore di buon cuor, non parlerà. Ora su, e mi siete amico, vi voglio soddisfar. Questo è il licore, già che non v'è nessuno, e vuò che ce lo bevia metà per uno. E poi cosa faremo? E poi ci sentiremo sottilizzar le membra in forma tale che andremo lassù come se avessimo l'ale. Beverei, ma non so, sono fra il sì ed il no. Con piacer vi credevo, se pentito già siete, io solo bevo. Non lo bevete tutto, per carità! Tenetemi, che ormai mi sembra di volar, come felice, o singolare fortuna, or ora sarò nel mondo della luna. Cosa avete negli occhi? Parete spiritato! Dallo spirito lunar sono invasato. Addio, vado! Fermate, voglio venire anch'io! Ecco, tenete il resto del licor, dunque bevete. Ma le mie figliole, la mia serva, quando sarete là, grazia per essi ancor s'impetrerà. Vado, vado! Son qui, vero, aspettate! Bevi, buon pro ti faccia! Io bevuto non ho, fra pochi istanti, dal sonnifero oppresso e addormentato, crederà nella luna esser portato. Ecco, bevuto anch'io! Mondo, mondaccio, rio, per sempre t'abbandono! Uomo sopra lunare fatto già sono. Ahimè, sento un gran fuoco. Soffrite, a poco tramutare sentirete tutte le vostre membra e goderete. Par che mi venga sonno. Ecco l'effetto che fa il liquore perfetto. Non posso stare in piedi. Accomodatevi, state pronto a salire e consolatevi. Mi sembra di volar. Lo credo anch'io. Caro Eclittico mio, ditemi dove sono, in terra o in aria. Vi andate a poco sollevando. Mi vo sottilizzando, ma come uscir potrem da questa stanza? Abbiamo in vicinanza un ampio finestrone. Vado, vado senz'altro. Oh, che papione! Sposarsi risolverà. Questa si sa. Lascio a Lisetta 100 ducati quando il marito si troverà. Era sei vecchio, questo si sa. Questo si sa. Povero vecchio, io non vedrete.